Quana una guli uva, quago mezzi, quago pula, gocile facile le seccia. Sumare la mezzi, macciaccia aiecia, macciaccia magolo, macciaccia legnora, icciana guerriccia iaca. Sumare la mezzi, macciaccia aiecia, macciaccia magolo, macciaccia legnora, icciana guerriccia iaca. Se le la se golo le cho alla gaborone cavaca la gore le chamole cadile le fazzi la Botswana la chake camolele Botswana li vitsala e mali papalele are somare le mezzi se le la se golo le cho alla gaborone cavaca la gore le chamole cadile le fazzi la Botswana la chake camolele Botswana li Itzala e mali papalele, are somare le mezzi. Rea cimugue, le mela remuzi, rozi mulele, li uva le gacchezze, ciuzza, ciuzza.